avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'aval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Questa mattina, se io pronuncio la parola, la frase mai ci fu pietà, l'immaginario di tutti va naturalmente a la manovra economica. Ma io in realtà questa trasmissione, che volevo già farla da venerdì, la faccio perché voglio puntualmente riportare l'attenzione alla memoria su un fatto che spesso viene trattato dai giornali, ormai non è più la parte principale della cronaca, però per le persone che lo vivono sulla propria pelle è un argomento che fa riflettere. Io lo dissi qualche mese fa, vidi una persona ammazzata sotto casa mia, via tranquillissima, quartiere ultra tranquillo, uno dei quartieri popolato da umarel, da avvocati, da papponcelli che gravitano attorno alla televisione pubblica, che stanno lì, fanno contorno, normale, tranquillissimo quartiere. Una mattina una persona viene presa a revolverate mentre saliva in macchina, pozza di sangue, tutte le signore che andavano a fare la spesa rimangono colpite da questo fatto. Beh, attorno a quell'omicidio, attorno a tanti altri omicidi che ultimamente stanno costellando la cronaca cittadina, città di Roma, fanno pensare che la profezia che fece una nostra collega un anno fa a questi microfoni in realtà ha buoni motivi per essere considerata fondata. Noi chiamammo a parlare del suo libro Mai ci fu pietà, la banda La Magliana dal 77 a oggi, Angela Camuso, qualche tempo fa, e lei ci disse: ma erano i tempi in cui c'erano gli sceneggiati, c'erano i telefilm, i ragazzini si andavano a comprare le magliette con gli eroi della banda La Magliana, se ne faceva un fenomeno di costume. Ma Angela ci diceva: guardate che dove sta scritto che questo è un fenomeno che non esiste più, un fenomeno in retrocessione, sono tutti belli, vivi e vegeti, quanto mai attivi, e si stanno dando molto da fare, e oggi ne abbiamo visto i risultati. Angela Camuso, buongiorno. Buongiorno. Ho in mano la tua nuova edizione di Mai ci fu pietà con un appendice che tu hai aggiunto e quindi hai corroborato e integrato quello che già ci avevi detto qualche tempo fa a questi microfoni. La banda La Magliana, che noi consideravamo la vulgata generale nella percezione generale del paese, che sia un fenomeno ormai che appartiene al costume, appartiene alla fiction televisiva, è qualcosa di passato, come se noi parlassimo di un telefilm sulla storia di Al Capone, ma in realtà le cose non stanno così. Sì, tutto fa pensare che non stanno così, sia per quello che sta succedendo in questi mesi a Roma. Io lo avevo intuito perché ho scovato con grande sorpresa, devo dire, a seguito della prima edizione del mio libro, ed è per questo che c'è una nuova edizione, ho scovato dei verbali di cui nessuno aveva parlato, di un pentito, un siciliano, che nel 2004-2003 entra in contatto con la malavita organizzata romana. Quindi parliamo di anni, voglio dire, in cui si girava romanzo criminale, ma credo che sia stato girato proprio in quegli anni, sì. Lì, in anni in cui ormai tutti, insomma me compresa, voglio dire, credevamo che i banditi della Magliana fossero ormai, diciamo così, dei personaggi trasfigurati, no? Entrati nel sinistro mito, esatto. dei grandi eroi negativi. Esatto, invece cioè questi sono 7 verbali dettagliatissimi di notizie, e c'è questo siciliano. Lui era uno che un siciliano che apparteneva a una cosca vicino a Bernardo Provenzano, viene mandato a Roma e insomma ricasca dentro il giro della malavita per colpa della cocaina, comincia a sniffare, comincia a giocare ai cavalli ed entra in contatto con personaggi come per esempio Giorgio Paradisi, cioè storico, mitico boss della banda della Magliana, che nonostante la condanna definitiva al maxi processo, lui godette per un periodo uno dei domiciliari aveva il permesso di uscire 2 ore la mattina. In quelle 2 ore, racconta questo pentito, con la pistola in tasca, perché aveva paura comunque di fare brutti incontri, si incontrava spesso ad esempio in un bar che aveva le vetrate sulla strada, in modo tale insomma che si poteva controllare. Si incontrava per esempio con un mafioso siciliano, e con tutta una serie di altri personaggi per gestire, voglio dire, gli affari a Roma. Allora, fermiamoci un secondo, Agia. 800 24 00 24, questa mattina so che esiste una fetta di appassionati maglianologi del nostro pubblico, avranno modo di confrontare le loro informazioni, di spiegare i loro punti di vista. La situazione è abbastanza evidente, una città che noi siamo abituati nelle iconografie più tradizionali vedere attraversata da caste monachelle con il loro cappello, la città della dolce vita, la città della politica, di tutte le abiezioni possibili e immaginabili, ma nessuno ancora la stava cominciando a vedere come una città in cui il fenomeno malavitoso si sta articolando anche con delle sue specifiche. E come si parla della Calabria, come si parla della Campania, come si parla della Sicilia, probabilmente bisogna cominciare a parlare anche del Lazio in questi termini. 800 24 00 24. 30 i morti dall'inizio dell'anno nella capitale, ma la cronaca degli ultimi tempi a Roma non è la storia di una banda criminale che ha il monopolio degli stupefacenti e il grilletto facile. Ad agire non è la potente banda della Magliana. Questi omicidi raccontano invece che è in corso una guerra tra diversi gruppi per spartirsi una torta che non riesce a soddisfare tutti. Una guerra fatta di omicidi, ma anche gabbizzazioni e avvertimenti. Secondo l'analisi degli organi inquirenti, ad oggi nella capitale non c'è una banda dominante e questo rende tutto più vulnerabile. Forse la Pax, che per oltre 15 anni ha tenuto insieme mafie... 800 24 00 24. Noi lo guardiamo con l'attenzione e la curiosità di coloro che vogliono capire, sapere di più. Non ci interessa lanciare campagne discriminatorie. So che gli amministratori romani tendono sempre a minimizzare, a dire che in fondo sono fenomeni circoscritti, fenomeni su cui c'è vigilanza, ma in questo momento su cui si vigila su tante cose, su cui i problemi del paese sembrano molto orientati verso la necessità di risanamento, di uscita dalla crisi economica, probabilmente un momento anche molto favorevole per le persone che si muovono negli interstizi della legalità. Beh sì, perché chiaramente la criminalità organizzata ha contanti e soprattutto, voglio dire, ricordiamo che le mafie oggi investono in attività apparentemente pulite, riciclano, ripuliscono completamente, quindi e questo è per ritornare poi insomma... Non vedono crisi, anzi per loro la crisi è una grande chance. No sì, infatti la crisi è una grande chance, anche se voglio dire forse qualcosa non va bene neanche per loro, visto che comunque ci sono dei movimenti, ci sono questi scontri. Obiettivamente se si spara vuol dire che c'è qualcuno che ha pestato i piedi a qualcun altro, vuol dire quindi che gli spazi comunque anche per muoversi all'interno della malavita sono comunque, diciamo, limitati. Ecco, ma dal tuo punto di vista, che sono anni che studi con attenzione questo tipo di taglio di cronaca, i tanti omicidi che si stanno avvenendo in questi giorni fra persone che comunque si muovono tutti nell'area della criminalità, cosa significa? Che c'è la ricerca di una stabilizzazione, di un sistema di controllo di tutte le piccole malavite frammentate? Ma io rispondo sempre così a questa domanda. Io credo, da quello che insomma modestamente posso aver capito, no, studiando tantissime carte sulla criminalità organizzata romana, a Roma esiste uno zoccolo duro di malavitosi storici che dalle notizie che arrivano dai palazzi di giustizia, dalle carte, comprese quelle appunto di cui io parlo in questa nuova edizione del libro, sono 30 anni che continuano ad operare in questa città. La storica banda della Magliana, non hanno smesso di operare, che ne so, gente come Enrico Nicoletti, che infatti è stato arrestato di recente per l'ennesima volta per più o meno gli stessi fatti. Non hanno smesso di operare gente come De Tomasi, il famoso usuraio che è storico collaboratore della banda della Magliana e secondo le indagini persino coinvolto nel sequestro Orlandi. Non hanno smesso di lavorare, dice il pentito di cui io parlo in questo libro, gente come Carminati, gente come Manlio Vitale, detto Lognappa, che hanno, adesso gestiscono attività commerciali, eccetera. Attorno a tutti questi personaggi, che comunque hanno una loro specifica professionalità, si muovono poi i restanti, diciamo così, criminali che stanno su Roma. E chi sono? Sono criminali giovani romani che, a seconda delle circostanze, si mettono al servizio dell'uno o dell'altro professionista del crimine autoctono. E poi ci sono le mafie tradizionali, c'è la 'Ndrangheta, c'è Cosa Nostra, c'è la Camorra, che voglio dire, fanno affari a seconda delle situazioni con i vari gruppetti, diciamo, di romani. Ora, che cosa succede? Succede, diciamo, che il fenomeno dell'immigrazione ha portato anche una novità, una frammentazione in questo ma questo è stato sempre così. È stato sempre così. Il problema, perché questi omicidi? Consideriamo che alcuni anni fa è stato sgominato un clan camorristico molto importante che aveva il monopolio sul traffico di droga a Roma, nella zona sud-est della città, che era il clan dei Senese. Senese anche lui affiliato alla banda della Maiana. Da quando è stato sgominato questo clan, qualcosa è successo. Evidentemente ci sono dei gruppi che hanno cercato di inserirsi per occupare dei vuoti. Ora, capire poi se si tratta soltanto di gruppi che si contendono il territorio o se invece c'è qualcosa di diverso, cioè magari uno sgarro a un mafioso, o magari l'opportunità di eliminare una persona per dare spazio a un'altra. Però tutto, secondo me, va letto considerando appunto che a Roma non c'è una struttura piramidale della criminalità, non c'è una divisione stretta del territorio, tutti possono lavorare, tutti possono sedersi al tavolo e potenzialmente abbuffarsi. Però, cioè, non c'è un grande boss che detta la legge. Non c'è, però è una criminalità subdola. Oggi sono amico tuo, oggi faccio affari con te, domani ti posso sparare alla schiena. Perché magari... Beh, molto moderna, direi. Vecchi e ammuffiti codici d'onore, poi non so se mai sono mai esistiti, a me non ci sono nemmeno in partenza. No, a Roma non c'è mai stato questo. Infatti si è visto anche com'è finita la storica banda della Maiana, si sono ammazzati a vicenda, si sono fatti... l'infamità è insita nella malavita romana. Ma a proposito di questo, se ho ancora due minuti, volevo leggere un brano interessante che è un po', diciamo così, la Cassandra di quello che sta succedendo oggi, anche se ovviamente, insomma, i riferimenti non possono essere, voglio dire, puntuali, però fa capire il contesto. In uno dei suoi verbali, a un certo punto, Marsiglia dice: Dagati, riferendosi a un mafioso, Paradisi a Giorgio Paradisi, e Fabio, riferendosi a un rapinatore di testaccio che secondo Marsiglia curava gli affari di un altro storico boss, Pernasetti, che all'epoca in carcere. Allora dice Marsiglia: Dagati, Paradisi e Fabio parlavano di fare un attentato intimidatorio agli zingari Casa Monica per far cessare loro lo spaccio e l'introduzione di cocaina. Come ho detto prima, si stava ricostituendo e ci stavano riuscendo la banda della Maiana. Si stava aspettando con ansia che uscisse dal carcere di Prato Raffaele Pernasetti. Con i figli di Enrico Nicoletti, in particolare Giorgio Paradisi, era, e qua ripeto le virgolette di Marsiglia, avvelenatissimo, dirà Marsiglia, perché diceva che quelli tra droga, usura e estorsione al centro di Roma si erano fatti miliardi, chiamandoli infami. Questi sono i verbali del pentito, che racconta, cioè, racconta come si stessero preparando delle faide. Con la novità però, Angela, che si comincia soltanto adesso a vedere come percezione generale di questo movimento che stava sotto. Roma sembrava una città piuttosto tranquilla. Roma si parlava di scippi, si parlava di piccoli episodi, rapine limitate, ma non c'era questa percezione come in altre città in cui il fenomeno è ben evidente, la gente si sparasse per strada. Sentiamo qualche ascoltatore, ricordo il numero 800240024, è morto anche questo ascoltatore, vediamo se lo riusciamo a recuperare. Allora andiamo avanti. Due fermi ci sono già, un 70enne e un 35enne, entrambi responsabili dell'assassinio di Roberto Ceccarelli, ucciso venerdì scorso a Roma con due colpi di pistola. Ma adesso bisogna capire movente e dinamica dell'omicidio e soprattutto chi dei due abbia premuto il grilletto. L'anziano 70enne, senza fissa dimora, poche ore dopo l'assassinio si era presentato spontaneamente negli uffici della questura. Agli investigatori aveva detto di aver sparato contro un imprenditore dopo un litigio scaturito dal mancato saldo di un debito e di aver poi buttato la pistola nel Tevere, aggiungendo che in passato aveva svolto alcuni affari con Ceccarelli ed era stato utilizzato come prestanome. Una tesi però che sin da subito non ha convinto la polizia. Diciamo che gli elementi che sembrano più ricorrenti in questo tipo di mafia sono innanzitutto l'usura, che mi sembra un fenomeno molto legato comunque. Roma è sempre stata una città in cui lo strozzinaggio e l'usura si vedeva, si vede nei piccoli baretti, si vedono le facce coatte, si vede questo giro di piccole anziane massaie che in realtà gestiscono fortune. Questo è abbastanza fenomeno locale. Poi se ne è stata la droga e altre cose. Sì, l'usura per esempio qui a Roma c'è una caratteristica, non c'è soltanto, voglio dire, il piccolo commerciante che chiede il prestito allo strozzino e poi finisce nel giro. Ci sono anche, voglio dire, personaggi che, diciamo, sapendo con chi hanno a che fare, credono di diventare ricchi facendo affari con determinati soggetti, i quali invece hanno già loro un loro progetto, cioè quelli di farli poi fallire e accaparrarsi, certo, e accaparrarsi dell'azienda. E questo è successo a tantissimi personaggi che sono entrati in contatto con, anche con la vecchia banda. È il classico Sola che tutti ci affidi e poi alla fine. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Primo ascoltatore. Avanti, lei è romano? No, io sono veneto. Benissimo. Di adozione. E intanto complimenti per la trasmissione, l'argomento è molto interessante e ci tocca da vicino tutti i giorni della nostra vita. Opero in un settore industriale da 22 anni e quello che io, per carità, senza entrare nelle peculiarità dei casi che voi state trattando, quello che mi chiedo da sempre è una riflessione che faccio, e la faccio ogni qualvolta vengo a contatto con uno di questi casi di mafia, di estorsione, di tutte queste vicende malavitose. In un'era in cui siamo in grado di fotografare un'auto a 20.000 km di distanza attraverso un satellite, in un'era in cui vi sono sistemi che ci permettono di riconoscere il DNA in una cittadina e di restringere il campo molto molto vicino. Sì, però come vede, se allude al caso appunto del Bergamasco, non è servito alla fine. Guardi, non alludo a nessun caso nello specifico. Ci troviamo in un'era nella quale veramente le tecnologie ci danno dei risultati garantiti e riscontrabili. La mia domanda è questa, è un po' una domanda cattiva se vogliamo. Domanda. È la vera incapacità di perseguire questi allora lei è chiaro, lei è chiara la domanda, lei dice oggi con i GPS, con le tracciabilità e tutto, se ancora queste persone agiscono indisturbate, che una fanciulla può tranquillamente leggere i verbali e scriverci un libro sopra, dice, perché gli inquirenti non agiscono in conseguenza. Andiamo avanti, sentiamo Francesco, sentiamo un po' gli ascoltatori e poi facciamo rispondere ad Angela Camuso. Francesco, allora, buongiorno. Premesso, io sono nato a Roma e a 20 anni sono andato via, adesso ne ho 43, vivo in provincia di Viterbo. Ricordo, come dicevo le vostre interlocutrici telefoniche, che praticamente c'era una sorta di aura di, diciamo, si affascinazione da parte dei romani per quanto riguarda i componenti della banda della Magliana, tant'è che alcuni millantavano anche delle parentele vere o presunte nei confronti di questi personaggi. E ricordo che la gente quasi si beava della presenza anche a Roma di una sorta di mafia, insomma. Cioè, lei ha avuto questa impressione che ci fosse uno senso di fierezza, dice, anche noi abbiamo la nostra mafia. Sì, guardi, io me lo ricordo e forse anche oggi c'è. Io volevo chiedere appunto se ancora oggi è presente questa cosa a Roma, dopo io che non ne manco da tanti anni alla giornalista. Ma io non credo che sia così diffusa. Poi risponderà Angela Camuso. Agostino, l'ultima domanda, poi facciamo rispondere ad Angela. Agostino, buongiorno. Allora, buongiorno, senta, io ho 67 anni e proprio un qualche secondo fa avete fatto il nome di Pier Nasetti. E io purtroppo, nel senso che frequentavo un bar a Testaccio, quindi ho conosciuto lui, Giuseppicci, che l'hanno ammazzato, ma l'ho conosciuto non perché fossi connivente, ma questa gente all'epoca, io parlo degli anni 70, all'epoca si comportava in modo così, io mi accorsi poi che erano dei delinquenti quando l'ho visto, ho letto i giornali che uno l'avevano ammazzato, quell'altro l'avevano arrestato, cioè è vero che tutt'oggi ancora questa gente può tranquillamente delinquere e girare con i soldi. Io mi ricordo, guardi, le giuro, no ci racconti, è interessante il suo punto di vista, perché a me è un'esperienza concreta. Io stavo dicendo appunto, io aspetta, però, Angela, lui di chi parla? Non c'è la volontà forse anche politica. Scusa un attimo Agostino, fermo un secondo, di chi sta parlando il nostro ascoltatore Agostino, esattamente, hai capito il sì, giro? Sì, no, No, no, lui sta parlando appunto di quello che accadeva a Testaccio, che era la roccaforte di Enrico De Pedis, sta parlando appunto di Pernasetti, che era il braccio destro. E cosa di Pedis, questo Pernasetti, cosa, diciamo dal punto di vista dei dati concreti, cosa ha fatto, di cosa è stato accusato? Lui è stato, era stato condannato in primo grado, per, gli hanno dato 4 ergastoli, poi gli hanno dato invece in secondo grado in definitivo 30 anni ed è uscito in semilibertà da un mese. Ecco, Agostino, lei come lo vedeva questo personaggio? Ma lo vedevo come una persona che andava a giocare diciamo, nel circo al bar della Catena a Via Marmolada, molto molto conosciutissimo, diciamo, e praticamente i circoli dove si gioca a carte, le cosiddette bische, vengono frequentati da tutti, dall'ingegnere, dall'architetto. Cioè, diciamo che l'attività è legale, la bisca è un luogo dove personaggi che poi hanno scoperto dopo che erano banda della Magliana e riciclaggio di milioni e milioni di euro, anche omicidio, praticamente girava con i soldi, con le tasche piene. Io mi ricordo solo un episodio di Giuseppiccio a Piazzale Marconi, che ci incontriamo casualmente, tirò fuori dalla tasca un malloppo di 50 lire dell'epoca, che erano qualcosa come 5-6 milioni, mi disse, dice adesso vado a fare una partitella in vecchinetta, perché si voleva girare tranquillamente con le tasche. Sì, ma lei, Agostino, come potrà pensare che una persona che fa così fosse una brava persona, scusi? No, no, le spiego, non che io pensavo fosse una brava persona, ma non che... fossero delinquenti a quel livello. Cioè, uno quando va in un circolo, mi segue, in un bar, sì, bar delle Catene, il bar che sta all'angolo, lì a Via Marmorata, di fronte alla Consolini, sì, ristorante, quindi lei va lì, ci trova l'architetto, ci trova sotto a giocare a carte. Ma loro andavano nei migliori ristoranti, andavano a mangiare da Bastianelli a Fiumicino, sì, quelli della Magliana. Ma lo dica a me, allo Shangri-La erano di casa, mi intendi? Ma nessuno gli chiedeva come facevano a ordinare. Sì, sì, no, questo è vero, scritto anche nei verbali, quindi. Appunto, io lo dico perché, vedi, io non è che dico bugie, io ho vissuto come ripeto 67 anni. Agostino, fermiamoci un attimo, dare la linea all'informazione del traffico, rimanga come nostro, della borsa, scusate, informazione della borsa, oggi poi è fondamentale, rimanga come nostro privilegiato interlocutore, visto che lei è una testimonianza così vivace e così concreta. Se altri romani hanno da raccontare episodi simili che non fanno altro che confermare quello che Angela Camuso scrive da anni nei suoi libri, ci chiamino pure 800 24 00 24. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La banda della Magliana esiste ancora ed è sulla piazza in modalità diverse di una volta era più appariscente, perché sparava, faceva violenza, casini. Adesso non è più necessario, perché dopo aver conquistato la piazza hanno incrementato i loro guadagni. La cassa della banda ce l'hanno coloro che sono stati appena sfiorati o al massimo toccati dalle inchieste, ne sono usciti fuori alla grande e ne continuano a uscire fuori e possono tranquillamente continuare a fare i loro affari. 800 24 00 24, abbiamo ripreso a parlare della banda della Magliana, annessi, connessi, con testimonianze dirette di romani che ci parlano e ci raccontano di questa singolare quanto palese commistione di gente per bene, di titolati benestanti professionisti che si mischiano con questi personaggi che hanno sempre tanti soldi liquidi in tasca, e poi quando entrano nell'onore delle cronache ci si accorge che erano pluriassassini, delinquenti, spacciatori, camorristi, mafiosi, via dicendo. Però la percezione generale, perlomeno da quello che diceva un nostro ascoltatore, è che fossero normalmente sedimentati nel tessuto cittadino. Ne parliamo con Angela Camuso, che è forse una delle più grosse esperte, almeno in banda della Magliana, che ha ripubblicato con un appendice il suo libro Mai ci fu pietà, banda la Magliana dal 77 a oggi. Stiamo sentendo gli ascoltatori, sentiamo anche Antonio, poi interveniamo con Angela. Antonio, buongiorno. Buongiorno, allora, sono napoletano e lavoro a Roma. Spesso a Roma sembra di stare a Napoli, è una cosa che si percepisce, almeno per un occhio allenato, un orecchio allenato di un napoletano, sembra veramente di stare a Napoli. Voi per le facce che girano, voi per gli stranti che portano loghi di pizzerie napoletane, eccetera. Ma c'è un nesso, secondo lei, a queste catene, sì, che improvvise appaiono? Non voglio fare nomi, non voglio programmi problemi, ma che improvvisamente, non mi faccia, improvvisamente in Italia ci sia un interesse così diffuso per la gastronomia napoletana e siciliana? Mi sembra molto strano. Mai visto tanti ristoranti siciliani come adesso? Cioè, la Camura sta investendo nel mattone e nelle attività commerciali, che a Roma fruttano bene e che diciamo come strategicamente è necessario, in quanto poi per i sequestri che sono avvenuti negli ultimi anni, che hanno attaccato il patrimonio camorristico, poi per velleità e quindi per aspirazioni di crescita commerciale eccetera, questi investimenti stanno avvenendo alla grande e sembrano anche addirittura indisturbati. Poi voglio dire, al cittadino può anche sfuggire quello che sta avvenendo come indagini, come della procura, sequestri, futuri arresti eccetera, ma intanto vedo che agiscono indisturbati, perché facce rosche che girano per Roma se ne vedono tantissime, Mercedes, anche gli recenti episodi, insomma, più... Cioè lei li riconosce dalla faccia losca? Io non sarei capace, onestamente. Sì, no, infatti l'ho premesso prima, all'occhio sono abituato e allenato. Cioè lei il quattro lo sente a naso? Come? Il coatto lo intuisce, lo vede a occhio, ormai abituato. Il coatto è anche improprio, diciamo, come no, dire, il termine che usiamo qua per dire la persona losca, ecco. Non corrisponde a quel genere, perché quel tipo di... cioè, camorrista ha una sua, diciamo, iconografia ben precisa, che non è nemmeno tanto, diciamo, tendenzialmente verso il coatto, ma quanto verso la persona ricca che esibisce, anche magari con stile, però in maniera così ostentata e così anche prepotente. Gli oggetti del lusso, quindi ho capito, l'accessorio si nota dall'accessorio. Roberta, sentiamo Roberta. Buongiorno Nicoletti, senta, io le volevo dire la mia esperienza. Io ho 35 anni, ho vissuto a Roma fino a 8 anni fa e io ricordo benissimo quando ero piccola, per riallacciarmi al ragazzo di 40 anni che l'ha chiamata dicendo che un po' i romani si vantavano di questo tipo di criminalità, io ricordo, ero piccolina ma me lo ricordo, che i romani, almeno nel mio quartiere, avevano paura, le persone, i criminali erano sì ben conosciuti, se solo tu provavi a dire qualcosa. Che quartiere era? Che quartiere era? Tiburtina. Al Tiburtina. Il papà di un bambino che veniva a scuola con me è stato ucciso proprio sotto al portone, di fronte al suo bambino, e le persone avevano più paura che altro. Io lo ricordo bene anche se ero piccola, questo negli anni 70, mi ricordo poi negli anni 80 alcune di queste persone che vennero messe in carcere, sono uscite, hanno continuato la loro vita con negozi di un certo tipo, coperture, perché poi alla fine facevano comunque lo stesso tipo di lavoro, la maggior parte erano svaligiavano banche o quant'altro, e ricordo anche negli anni 80 come nei primi 90 che queste persone continuavano la loro attività, anche dove abitavo io ci fu una sparatoria con la polizia, erano ben conosciute. Quindi in certi quartieri, diciamo, era già avvertibile quello che oggi sembra una notizia, un fatto clamoroso di cronaca. Angela Camuso, da queste telefonate tiriamo alcuni punti. Innanzitutto mi interessa l'antropologia del camorrista, che diceva in maniera un po' sommaria il nostro ascoltatore, ma se corrisponde realmente, in cosa stanno investendo, quali sono le attività non più rapine? Io vedo tanti negozi, per esempio compro oro, è una delle attività laterali ad esempio? Ma sì, vabbè, i compro-oro, insomma, secondo le indagini, sono comunque luoghi dove molto facilmente si ricicla, denaro sporco. Ce n'è uno ogni angolo a Roma di compro-oro. Sì, adesso poi che sia tutto della malavita romana. No, non sia, voglio dire tutti, ma però, è un sintomo. Però sì, ma queste, ci sono indagini in corso sui compro-oro, proprio perché si suppone, ma già ne hanno scoperti diversi che sono... insomma, quello che hanno ammazzato sotto casa mia c'aveva un compro-oro, infatti. Sì, no, diciamo lì i gioielli di Simmi sono, diciamo, dei gioielli storici. È una famiglia storicamente legata, voglio dire, a quella che fu la vecchia Bandella Maiana, almeno c'era lo zio di quello che hanno ammazzato, che insomma fu anche processato e condannato, e lui era quello a cui Giuseppucci, il famoso Giuseppucci, dava voglio dire i soldi delle rapine, che poi insomma questo gioielliere andava a investire al Monte dei Pegni e comprava i gioielli che poi si rivendeva nel negozio. Infatti loro hanno poi questo negozio lì proprio vicino al Monte della Pietà. Il papà invece di questo signore che hanno ammazzato è entrato anche lui nel processo della Bandella Maiana, è stato assolto, però poi ci sono state anche altre indagini su di lui, è entrato anche in un'indagine sui Nicoletti, insomma voglio dire c'è comunque ci sono delle cose che si sono mosse. Anche lo stesso questo pentito di cui io parlo aveva parlato sempre nel 2004-2005 dei Simmi, sostenendo che avevano dei legami con i siciliani. Ma ci sono quartieri, insomma, più a rischio, una volta c'erano i quartieri classici. Ma voglio dire, no, ci sono gli storici quartieri, cioè nel senso Testaccio è comunque un quartiere dove c'è comunque una presenza. Ma oggi le sparatorie sono Campo dei Fiori, sono a Prati. Campo dei Fiori è un quartiere dove c'è una presenza sul fronte appunto della ricettazione, dei gioiellieri, eccetera. Voglio dire, il sud la zona sud-est c'è invece il discorso della droga molto forte, ci sono poi spazi un po' dovunque, sia a Prati, sia al centro, sia all'Ostiense, diciamo autosaloni che sono gestiti dalla criminalità. C'è una grossa attività, all'epoca ne parlava Marsilio, di import-export di diamanti con i siciliani, in cui oltretutto c'erano delle gioiellerie che poi erano legate anche al famoso Mockbell, vi ricordate? Cioè, fermati un attimo, Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Sì. Chiamavo, io sono un rappresentante delle forze dell'ordine e effettivamente volevo confermare anche quello che diceva. Opera su Roma, lei, Alessandro? Opero su Roma, chiaramente. E diciamo, voglio confermare quello che ha detto un ascoltatore. Cioè, effettivamente c'è una sensazione a Roma di un grosso interesse da parte della criminalità organizzata, specialmente nel settore del commercio, nel settore della ristorazione. Per esempio, dove effettivamente c'è una proliferazione, per esempio, di locali riconducibili sempre a medesime persone, a medesimi gruppi che cioè non voglio Dio me ne guardi di discriminare a priori, ma che ci sia stato questo improvviso esplodere della gastronomia siciliana e napoletana su Roma, mi sembra molto singolare. Sì, questo poi bisognerebbe capire, in effetti, diciamo, poi generalizzare, però è preoccupante. No, non voglio generalizzare, ma non so, perché non ci sono altrettante trattorie toscane, mi viene da pensare. Sì, esatto, o valdostane. O valdostane. Cioè, che non si trovano, sì. Sì, tra altre cose, le dico questo, perché spesso questi personaggi, che poi sono in carne ed ossa, per cui sono facilmente individuabili, hanno comunque dei contatti con il livello politico, quello di più basso livello, che però gestisce certe cose, parlo per esempio a livello municipale. E queste situazioni, tra altre cose, si sa, per esempio, a livello immobiliare, o a livello commerciale, per sì, molti mi citano, diciamo, il mercato immobiliare che molte volte specie i quartieri nuovi, sì. I quartieri nuovi che si stanno sviluppando, nel campo immobiliare sono delle grossissime truffe, vendono case che non sono le loro, fanno finti rogiti, c'è un'organizzazione intorno alla compravendita degli immobili che fanno delle cose funamboliche proprio da questo punto di vista. Senta, le faccio una domanda, mi scrive un ascoltatore, dei camion bar, io non so nemmeno cosa siano i camion bar. I camion bar. Ah, i camion bar sono quelli che per esempio stanno fuori, diciamo, che ne so, a Roma il Palo Automatica, dove fanno sia le partite di basket, dove facevano una volta, fanno i concerti soprattutto, e vendono, che ne so, le salsicce, la porchetta, il panino, quelli che una volta stavano fuori negli stadi anche. Ah, ecco, sono quelli mobili, diciamo, i camioncini. Sono mobili, sì, l'esercizio. Mi dice un ascoltatore che quello è un settore molto molto sospetto. Allora, i camion bar ci sono sempre esistiti. Conosco alcune persone che innanzitutto nella vita hanno deciso di cambiare attività e dedicarsi a questo. Persone assolutamente per bene e pulite. È chiaro che anche lì c'è una proliferazione. È possibile che alcuni di questi siano poi, la loro finalità non sia tanto quello di vendere la porchetta, ma sia quello di magari dedicarsi ad altre attività illecite. Sicuramente Roma è un mercato fiorente da questo punto di vista, dove attira molto. E forte è il legame che noi ci accorgiamo esistere tra questi personaggi, certe situazioni e il livello politico, quello che viene meno considerato, ma che non si pensa mai è importantissimo nella struttura sociale di una città. Dice, c'è un humus, diciamo, a livello di gestione di piccoli poteri amministrativi locali, che in qualche maniera rende facile il lavoro a queste persone. 800 24 00 24, soltanto un minuto per le informazioni del traffico, poi riprendiamo con Angela Camuso. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. on s'est connu, quand on s'est reconnu. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Hanno vissuto i loro 40 anni da boss del quartiere. Nel loro quartiere sono morti sotto i colpi di due killer ancora sconosciuti che hanno aperto il fuoco sui due boss in pieno giorno vicino a questo bar in ristrutturazione. Da ieri mattina è stato fatto un'assemblea con tutte le associazioni proprio per chiedere sicurezza sul territorio, ma purtroppo ci sta gente che dice che qui siamo tranquilli. In zona, per esempio, di macchina polizia e carabinieri se ne vede una, due al massimo, non di più. Non è che girano. Ieri per esempio ce ne stavano 10, ma perché è successo sto fattaccio, altrimenti non si vedono macchine delle polizie. Questo è una cronaca presa da un servizio televisivo dopo un omicidio che c'è stato a Ostia, 800240024. Stiamo cercando di registrare un po' un clima che si comincia a respirare nella capitale. Lo facciamo con Angela Camuso, giornalista, storica, lettrice delle carte più conosciute da tutti, ma mai viste con tanta attenzione. Guardo la banda della Magliana, infatti ha scritto un libro, Mai ci fu pietà, che ormai è un testo quasi universitario sulla banda della Magliana, che riesce proprio in questi giorni, con una nuova edizione, aggiornata su quello che sta accadendo in questi giorni. Angela, mi sembra dal tono delle telefonate, a cui noi diamo chiaramente libertà di parola, il senso sia che la città in realtà si comporta, esiste nell'edilizia popolare un termine che è la romanella, è una cosa fatta così, rabberciata. Anche l'attenzione rispetto a questo fenomeno sia una grande romanella. Sì, c'è attenzione, ma in fondo lasciamo perdere, sembra quasi che il ventre molle della città possa anche arrivare a sedimentare questo fenomeno. Io non sarei tanto convinto. Ma io, sempre ritornando un po' ai fatti, a quello che ho letto, allora questo pentito di cui ho scovato questi verbali che non erano assolutamente conosciuti, anzi non si sapeva proprio dell'esistenza di questo pentito, parla nel 2004-2005, racconta questo mondo, no? E fa i nomi, fa i cognomi, gli indirizzi di negozi che secondo lui pagavano il pizzo, di autosaloni che sono gestiti da quelli della Magliana, si parla di infiltrazione all'ippodromo, della gestione del Toto Nero, infiltrazioni nelle curve degli ultras, gestioni dei negozi della S Roma, voglio dire, continuano a scrivere anche gli ambulanti, dice dietro gli ambulanti c'è un grande commento. Sì, adesso sugli ambulanti non ho mai letto nulla, è probabile, poi però bisogna anche distinguere, cioè tra la criminalità organizzata e la criminalità comune, cioè che poi ci sia insomma lo spacciatore che magari spaccia vendendo l'hamburger, non è quello il punto, poi che ci sia invece un racket di gestione dei camion bar, questo non lo so e quindi non posso rispondere. Io registro la media reazione del pubblico. Io quello che dico, allora, a un certo punto c'è questo pentito che racconta queste cose, viene considerato attendibile, tant'è che si fanno degli arresti per droga a seguito delle sue dichiarazioni. Poi c'è tutto un altro mondo che lui disvela, che doveva essere in qualche modo investigato. Voi avete mai avuto notizia di un' indagine globale su questo motore criminale della città? Cioè avete mai avuto notizia di indagini che hanno colpito, voglio dire, gli interessi della criminalità organizzata romana da 6 anni a questa parte? Cioè in questo capitolo aggiuntivo, scusami Angela, cioè praticamente non è che te lo sei inventato, hai trascritto dei verbali che tu hai letto con attenzione, una mappa di alcune attività illecite di cui un pentito certificato che ha detto cose vere, ci hanno avuto riscontri, tu sei andata in giro per qualcuno di questi esercizi e di cosa succede? Ma no, perché voglio dire, non è questo quello che a me interessa, voglio dire. Sì, tu non fai poliziotto, giusto. Non è che io possa andare oltre, voglio dire, le investigazioni. Io però mi chiedo, ci sono stati anni di relativo silenzio, di relativa pace, in cui, voglio dire, come avete detto, come ha detto anche Nicoletti, sembrava che Roma fosse una città tranquilla. Nicoletti, tu. Sì, e improvvisamente ci si accorge che a Roma si spara. Allora, se si arriva a sparare, che vuol dire? Vuol dire che dietro, che negli anni passati, c'è stato un terreno, no? In cui, ci si è preparati a questa situazione. Cioè, non è che la criminalità organizzata si nasce da oggi al domani. Spariamo, sono processi di lungo, di medio termine. termine, ed è, voglio dire, la criminalità organizzata è un cancro che si inserisce nella società. Allora, se il cancro non lo, diciamo, curi quando è piccolo, poi è chiaro che diventa ingestibile. La cosa grave è che c'è ancora qualcuno che sostiene che non c'è, una criminalità organizzata. Allora a quel punto ci si deve chiedere il perché questo si è dice andato. Scusa, Angela, tu puoi dire che in realtà a Roma ormai si può parlare di una sua specifica criminalità organizzata. Ma sì, io credo che io non si chiama mafia, non si chiama camorra, non si chiama 'ndrangheta, ma non ha ancora il suo nome. La banda della Magliana, secondo i PM, era una mafia. Poi c'è stato una sentenza di Cassazione che ha annullato l'associazione mafiosa, e quindi è stata riconosciuta come un'associazione a delinquere normale, quindi ne prendiamo atto. Però esiste una specificità di una criminalità organizzata romana che è storica ed è specifica perché i personaggi che si muovono dentro questo sistema sono fondamentalmente gli stessi da 30 anni e attorno a loro poi si muove tutto un mondo di giovane leve, sempre romani, e poi di un mondo di forestieri che sono sempre molto ben accolti. Comunque questo perdurare di una generazione dominante di 30 anni fa pensare ci siano gli elementi per vedere sul nascere una malavita organizzata. Sentiamo Fernando, buongiorno. Buongiorno. Abbassi, spenga la radio però, per gentilezza. Sì. Senta, io sono proprio dalla zona Magliana, abito proprio qui, zona via Magliana Nuova, tra l'altro preciso, e vi spiego, ancora qui c'è una forte pressione di essere conoscenti o parenti addirittura di componenti o ex della banda della Magliana. Quindi aveva ragione con l'ascoltatore, c'è una sorta di fierezza che è tipica delle zone a infiltrazione mafiosa, vantarsi di avere degli ascendenti in coloro che esercitano il governo occulto della zona. Sì, è vero, è verissimo. Tra l'altro è successo a me direttamente. Io faccio l'amministratore a uno stabile e la proprietaria che non abita in questo stabile dove faccio l'amministratore ci avevamo affittato un appartamento. Tra l'altro io, una vita che stavo qui, non conoscevo chi c'era dentro, conoscevo una persona del tutto amico. Al momento che andava via, questo ha preteso di lui di affittare questo appartamento, ma la signora mi ha dato l'incarico a me come amministratore di trovare una persona che sia in regola con i pagamenti, che era tranquilla con il condominio, abbastanza un condominio decente, E questa persona mi ha quasi minacciato. Alla fine amici mi hanno detto di lasciare stare perché era il cognato di Raffaele, proprio di Raffaele Pernasetti. Tra l'altro il suo abita proprio a palazzo appresso al mio, quindi... Allora, a un certo punto ho lasciato stare, ma non per paura, c'è la macchina, le cose, c'è sempre paura con la famiglia. È chiaro, Fernando. Angela, quest'ultima telefonata che ho mandato, secondo me è significativa del clima. Quando ormai in un territorio c'è qualcuno che ti dice stai attento perché quello è parente di quello, c'è proprio il senso viscerale, familiare, tribale di un'organizzazione mafiosa che si è occupata di un territorio, non è semplicemente malavita sparsa. Qua questo è, comincia a esserci una sorta di sottogoverno generalizzato riconosciuto. Sì, no, è molto grave, è molto preoccupante. Queste sono cose che ti lasciano veramente con il mal di stomaco queste notizie, perché appunto si capisce come hai detto tu che in qualche modo c'è un controllo del territorio, anche se poi magari fatto di suggestioni o perché però qualcosa c'è. Ad esempio io volevo dire una cosa a proposito del discorso del commercio. Io ho saputo che per esempio on est parti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.